Piscatore stu mare pusileta, che ogni notte me sente canta. Piscatore sti parole son lacrime, per Maria canta, me sta dormo mare. Pace attorno a me, ma perché me la sape, mentre mi muore stanotte per te, zitto il cuore canter busilega, vega un'ombra case me fa una manella e una voce me chiamana tra sti braccia Maria può tornare. Dormo mare e voca, oh, yeah.